Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a Cristiano Valli per la regia, grazie a voi tutti della cortese attenzione, grazie anche agli amici che ci scrivono e non ci fanno mancare i loro consigli, come Poldo, Roberto Garofalo e Carlo Pacchetti, di cui abbiamo apprezzato il tentativo di conversione nostra al realismo scientifico. Non si dispiaccia, tuttavia, se noi proseguiamo sulla nostra strada, il realismo scientifico non sta in piedi e circola liberamente fra noi soltanto come funzione del potere. L'unica rivoluzione possibile è quella che se ne sa liberare. Buona giornata a tutti.